Alan Beats. Sa, ci sei? Pac-Man, Porno Pride, Pisana Crew, DJ Alan Beats, ci sei? Ci siamo? Ok? Andiamo, ok. Allora, fumo e parlo più di un dizionario, pazzo visionario, predico l'amore, medico l'umore, missionario, numeri da disco orario, super il tuo disco è vario, discorriamo, registriamo lenti ma ci discolpiamo, rubo al dogo la sua penna capitale, tanto adesso è a modo fare finti neri nella capitale, da sempre contro trend, contro swag banale, meglio un lento senza band che il tuo pedo porno liceale. Prendi a male, piuttosto vieni a vendemmiare, che di sicuro un vino rosso scuro vende uguale. Il vostro colon gode quando c'è il vocoder, ma me rode quando ne mettete troppo perché manca il sale. Agli agganci, i ganci da un quintale, sganci rime da fare, carneficine come a Salem. Per ogni artista che si imborghesisce sopra una strumentale, nascono quelli che fanno il culo a strisce. Yo, non importa ciò che fai, qui conta quanto sfonda la tua voce senza effetti da live. È porno Pride, il ritorno dell'hip hop life. Pac-Man, Alan Beats, NoFX, Mike. Non importa ciò che fai, qui conta quanto sfonda la tua voce senza effetti sul live. È porno Pride, il ritorno dell'hip hop life. Pac-Man, Alan Beats, NoFX, Mike. Non importa ciò che fai, ma solo ciò in cui credi. Porno Pride, do your thing, red lights fade. Non importa ciò che fai, ma solo ciò in cui credi. Porno Pride, do your thing, red lights, baby. Yo, esco dai tubi come Super Mario Bros. Faccio cubi di Rubik, stile Cuber, System DOS, tempi cubi. Stupri l'hip hop come Rick Ross. Pac-Man, rime grasse, ma fisico Kate Moss. Sei boss, io non ti assomiglio, io come un assopiglio. Ho un full in mano, punti il grano e poi ti assottiglio. Da lattante ne ho fatte di vasche a nuoto, un bravo figlio. Piante nelle tasche come nascondiglio. Vecchia scuola, stile Rick Pop Pump, guida buona, ritmo ska, hot tracks. Vuoi l'hardcore, mi rido al punk. Il rito è skunk da eccellenza. Faccio resistenza come Mitterrand da finta delinquenza. Quindi mettiti in salvo. Cecchino sopra i tetti con proiettili da biro lì malvo. Vivo in posizione di stallo e segni il gratto in ogni situazione per gli spiff che mi impallo. Yo, non importa ciò che fai, qui conta quanto sfonda la tua voce senza effetti da live. È porno Pride, il ritorno dell'hip hop life. Pac-Man, Alan Beats, NoFX, Mike. Non importa ciò che fai, qui conta quanto sfonda la tua voce senza effetti sul live. È porno Pride, il ritorno dell'hip hop life. Pac-Man, Alan Beats, NoFX, Mike. Non importa ciò che fai, ma solo ciò in cui credi. Porno Pride, do your thing, red lights, baby. Non importa ciò che fai, ma solo ciò in cui credi. Porno Pride, do your thing, red lights, baby. Non importa ciò che fai, ma solo ciò in cui credi. Porno Pride, do your thing, red lights, baby. Non importa ciò che fai, ma solo ciò in cui credi. Porno Pride, do your thing, red lights, baby. Non importa ciò che fai, ma solo ciò in cui credi. Speed, ciò in cui credi. William Pascal, la comune CDC, Diesis, Master Giulio, RST, Bella K Crew, Doc e Brown, Bella Pants, Formoni d'acciaio, Just a Case, Pennywise e Dottore, Bella Antres D, Bella Rapper Soul, Do Your Thing, Bella